vediamo un po' se c'è qualcuno qua. Marino, Marino, sì sì, Marino, Marino. C'è qualcuno? C'è qualcuno? Tony! Tonino! Anto, fa caldo! Sì, sì. No. Non è finito, eh? Eh? Non è finito, eh? Sì, sì. Avvi sese? Pippo, Pippo. Pippo, Pippo, Pippo, Pero. Chi è che fischia? Che fischia, che fischia? Chi è che fischia? Ora, ora. Pippo, Pippo, Pippo. Pippo Pelo, Pippo Pelo. Manuele, ci sei? Torino, ci sei? Manuele. Chi è? Giorgio. Come ti arrivo, Manuele? Natalia, vabbè. Cappa, ciao. Fa un passaggio. E 1, 2, 3, dai. 9, radio 5. Cappa, anche tu mi stai arrivando molto bene. Ebbè, Natalia, sto a posto. Ehi, tutto a posto, da mettere a posto, dai. Sì, da mettere a posto. L'importante è che si mette a posto. L'importante è quello. Ok, dai. Stavo sentendo quello che dice Vittorio, allora ho voluto salutare. Comunque, col gommino sta uscendo. Sì. Adesso esce forte, esce bene veramente. E cappa. Vabbè, la macchina, vabbè, per l'antenna, cos'è conclusa? Nulla, nulla, non ne faccio nulla. Poi mi ci dà pure un'ernia, se va a comprare io, ma... macchina, con un amico che era un po'... Lascia perdere, che casserò tutto il mese di giugno, di luglio, che non riuscivo a camminare, tutto piegato, tutto storto. Adesso appena appena sto un po' meglio, ma mi devo subito sedere perché mi tirano le gambe. Io sono rimasto anche senza diabetologo, perché chi si ne è andato e ora mi devo cercare un altro diabetologo. Nel centro diabetico di San Pietro non mi pigliano e va, devo andare a vedere se riesco a pigliarmi, ci sia la dottoressa, lo vedo. A chi è sempre occupato sul telefono, mi devo andare di bastone, vado pure impegnato. E adesso con questo cavolo di merda che c'è in giro, torna, con questo cavolo di curvi, cazzo al ripondino non ti ripone più nessuno. Sì, infatti. Già ti chiamo il carabinieri. È uno casino. Uno casino. E quindi mi stavi dicendo, quindi non si può fare nulla nella frequenza della 27. Non penso più che poi qua non mi sento bene, sono messo male, quindi non ce la faccio a fare nulla. Non posso fare sport. E tu, ui, cazzo la Clari, quando è, non la Clari, a fine giugno andiamo a sapere con la morte Emilio, lì a Morafa, se guardate con la morte a carrozzella. Mai bravo si andava, mai si è potuto andare ai vivi. Come ho tirato su per caricarla nel cassone, meglio ti sui strappo, ui, ad odori, per carità. Immagina, io sono sempre addolorato nella pancia e sono solo detto che mi si salirmi. E ce l'ho rientrata io fortunatamente. E come ti è fatto a entrarsi? Io ho spinto in dentro con la mano. E cosa vuoi fare? La linguine mi. Ehi, cazzo, mamma mia. E cosa mi da capo? La pulizia è. Pesso Maria. È brutto, quando ci sono queste cose qua è brutto. È brutta, che cazzo di bene che dolore, non la vai manco più a camminare. Attarino, può comare! Riccardino, può comare che? Attarino, può comare! Può comare sarai tu! Ma quando sei nato! Io te l'appoggio, mi cinco. Vabbè, Manuela, io chiudo, ci sentiamo alle prossime. Ciao Natali, ci sentiamo, dai. Buona continuazione di serata. Ciao Natalino, ciao. E beh, Riccardino, è barrato. E beh, non mi senti. Natalino, mi senti, Natalino? Chi è che non vuole, chi è? Pompo! Dimmi! Non arrivi, qua! Come non arrivo? Arrivi tutto, strano, non arrivi, Aspetta, che c'ho il piede messo male. Aspetta un attimo che lo stringo bene. Uia! Che cavolo gli ha preso? Che ne si, Oh, adesso mi senti bene? Adesso si affondo scala. PLB, non prendo le palle, adesso non lo fa più. La scala non me ne segna. Ma prostituta mi sembra adesso. Poco fu tutto mi senti. Oh, Iuliaga, adesso è a posto, visto? Riccardino, i pali due. Ma è evidente c'è Riccardino. Poco fa l'ho sentito, Riccardino basso, ma l'ho sentito. Sì, È all'ombra. Pompo, quanto ti arrivo io così? Guarda un po'. Quando va? Sicuro. Senti alle 3, 4, radio 4. Che così poco, un kilowatt e due, mi aspetta solo a basso, guarda. Guarda, adesso sono 104, guarda adesso, 1, 2, 3, prova. Segnale 1 oscillante, sì. Guarda adesso, 1, 2, 3, prova. Segnale 1. Guarda adesso, 1, 2, 3, prova, 30, 40, 50, guarda un po'. Adesso sei salito a treni. Che te va l'ospite a Canimur, tu sei a fondo scala. Adesso sei salito a 9, dipende da come ti muovi. Pompo, dimmi. Adesso sei nel bromino, dove mi ascolti? Sì, come la della ganna. Faccio like, sei 300, se ne sta vivendo qua a casa io, figurati. Sto usando la direttiva, la 720. Stai usando quella? Allora, è puntata a Monte Oro pure. Se la giro la punto al monte. Uiaia. L'altra non ce l'hai, quella la X300. Sì, ce l'ho, ma non posso attaccarla sotto la mantova, no? Devo piazzare la gaffa nuova, anzi due gaffe, devo piazzare un paletto, per forza. E metterla nell'angolo, nell'altra parte. Me la vendi a me, aiuto. Certo che te la posso vendere, se ti serve. Ma se è messa bene, funziona bene, quanto ne vuoi? È messa bene, io l'ho comprata da Stefano e l'ho usata solo una volta, la verità, l'ho testata sopra, poi ho, siccome con la mantova, lo sai che queste antenne non escono attaccate una all'altra, addirittura quella della 27 mi dava stazionare a 1,8 e ho bruciato un finale del lineare, ho bruciato. Quindi l'unico modo per poterla far uscire bene è piazzarla separata, almeno 2 metri distante dall'antenna del baracchino. Ma X50 o X30 o X300? X300, cioè quella bianca lunga, quasi 2 metri di altezza. Come sa? Per esattezza è 1,70 m. Ehi, vabbè, mi sono sbagliato di 20 centimetri, anzi 30, 7-3-10. Ce l'avevo quella lì a Milano, adesso quanto sparavo con l'antenna lì, la X300 della Diamo? Lo so, quella che c'ho io, infatti, è della Diamo, la X300. Io non la posso utilizzare perché c'ho... devo spostare per forza la 2 metri di distanza dall'antenna del baracchino. E tu certo per attaccare. Ehi, vabbè, lo so. Ma già esce bene anche questa, la direttiva che c'ho mi, questa 6 elementi. È bella grande, questa fa V e U, quella che c'ho io. E pesa me. Pesa almeno una 15 kg. Sì, già l'ho vista. Già l'ho vista dove ce l'hai montata. Ma esce bene. Non è tanto alta, già l'hai vista. Se dovessi piazzarla più in alto, in un altro paletto con un motore, diventa un siluro, diventa quell'antenna. Adesso sto usando l'857. Ehi, all'857 di sto usando. Esce bene, esce. Va benissimo. Lo so che rende bene questo apparecchio. In V e U è un micidiale. Anche 27 esce bene. Avvero. Avvero, avvero, mi. Illu! Era una carina poco fa, Antonio. L'ho sentito, ci ho parlato anche ieri sera. Che se perché non usa il PMR, visto che non disturba il PMR? Basta che usi il PMR, lui è porta a parlare tranquillamente da là. Tanto non disturba nessuno. Si mette un'antenna V piazzata dove è a posto della parabola, toglie la parabola, ci mette l'antenna per la V e per l'U e lui è tranquillo. Ma se si va bene anche col gommino, cacciare via a voce, no? Vabbè, ma siccome c'è la parabola che si sta vedendo di lì, basta che si piazza un'antenna di quelle da macchina, per dire, agganciata alla pipetta, e riesce bene lo stesso, mi dia, con un'antenna di macchina, con una diamante per macchina, non è che esca male, no? E mi sembra che lui ce l'ha. E si mette una di quelle, cazzo, se l'ha messa anche Torino, già l'hai visto anche tu, cazzo, arriva forte con quell'antenna lì, se meglio della discona e scia. Ah, quella discona, io sono sicuro che quella discona gli era data per voi umano, va bene, cioè sto pensando io che sia solo esclusivamente per quei telefoni cordless che fa 49-76 MHz quell'antenna, secondo me, perché si usavano le antenne così una volta per poter utilizzare quei radiotelefoni che facevano intorno ai 30-40 km, quei Gollatex. Sì, ma no, ce l'aveva anche Marino, la piazzata non serve a nulla, non servono quelle antenne lì. Ce l'avevo anche io quelle antenne lì. Vabbè, ma lì non gliel'ho data io, c'ha lo stilo, è diversa. Che anche i radiali, poi c'ha ogni radiale è uno diverso dall'altro per ogni frequenza, però il 27 usciva. Io l'ho messa che era bassa a me, attaccata quasi al tetto, quindi. Però funzionava bene, stazionale non ne aveva per niente. Io l'ho controllata con questo apparecchio qui e usciva in 27, in V, in U, e tutte le parti. Stazionale sempre zero. Antonello, sì, buon pugno. Ma prima usciva, il bello che prima usciva con l'antenna lì. L'abbiamo spostata, già lo sai, l'abbiamo spostata, non funzionava più. E ora aspetta che c'è qualcuno mi ha chiamato avanti, chi è? Chi è me che c'è se sono Alessio, avanti? Palito, mi ha chiamato solo Palito e poi Palito. Evidentemente sta provando qualche portatore della Brundi, quello, e mi ha riconosciuto, niente di strano. Aspetta, arrivo giù subito. Sono ritratto. Però lui come mi ascolti tu, Antonio? Bene, ti ascolto. Segnale 9. Andar bene. Cazzo ne abbara noi, se senti butto lo vento. Sì, vabbè, a me lo vai a pescare stanotte. pescare. E che cazzo per male? Sei andato un paio di volte in tutta la vita mia. E vabbè, guarda, io una volta sono andato a pescare, eravamo io, Andrea Marico, Riussi e Gianni Riussi, che siamo alla Renault 5 bianca. A posto di pescare pesce ci abbiamo pescato in braghiera. Ma Gianni chi? Quello Magurino, stai dicendo, Antonio, che c'aveva l'R4 c'aveva. Eia. Seria, mami. Eravamo lì a Porto Torres, eravamo, la verità. C'era anche mio fratello, Giampiero. Ci avevamo abbigliato in braghiera. Ci avevamo portato i panini, il vino, la birra, altro che pescare era. Ma mano non c'erano i controlli la notte. Vabbè, prima ce n'erano di meno controlli. Allora se ti bisseggiare già mi sono cazzamari, devi ritirarmi subito la battente. Già lo so. Se anche con un bicchiere di birra sei già qualcosa alto. Dipende che in quale bar la bevi. Perché se quei bar ci sono i vigili urbani, poi ti fermano. E dicono prima ti fermano, ti fanno il palloncino, stai tranquillo che lo faccio fare anche a loro, dei carabinieri però lo faccio fare. E dico faccio il filmato, loro erano con me bevendo birra il doppio di me, non ho capito. Cari lo bimbiaco io anche. Cazzo, che ti credi che oggi non bisi? Cazzo di vedere esempio dalla bacca di Gozio, di Bredanida, fermi, dove faccio fare il mascatto. In quel circolo, non so se è un circolo, ma un circolo mi pare. Sì, anche qua vengono. Mettono il caratteri dietro l'hotel, capito? Ammacciato, poi entrano il vigile, entra l'autista e l'altro, tutti e tre, bevendo birra, a finire fino alle 8:30, 9:00. E da voi gli erano nella balla a te, a che non andasse a rivirla. E di soppiccio. E infatti. Aspetta un secondo, mi sta chiamando Simone. Ciucucciù. Eia, ciucucciù, uia. E beh, la domanda lui non te la fa, non l'ha ancora segnata. Aspetta, la domanda del come si chiama? No, non l'ho consegnata, no. Ci ha parlato con lui, anzi ho fatto un'altra domanda, mi hanno risposto e ci ho mandato a cagare in pratica, perché non era lavoro da fare così, capito? Lì da cosa, dal telefonino, trova lavoro, capito? Mi hanno risposto, Antonello siamo preoccupati, lunedì devi andare a colloquio, sì. A colloquio, se non c'hai cazzo non vogliono anche il curriculum, gli devi consegnare anche il curriculum, te l'ho detto di fartene un po'. Sì, te li consegno pisello, io poi come guarda, io faccio questo, faccio quell'altro. Se li consegno pisello. Siamo preoccupati, ma mi ha scritto, venga la lunedì a colloquio. Vai, ho detto, mi era fottidura, ci abbiamo e ce l'ha già mandati. Beh, che abbiamo entrare avanti? Ah, sono tornato per l'ufficio di collocamento, mi ha fatto qualche domanda. E se la gente all'ufficio di collocamento che ti dà sul zavaglio, allora zitta. Sì, lavorare in mezzo giugno faceva 3 mesi, 6 mesi. Spendeva a lavorare, poi stava un mese fermo, poi altri 6 mesi, lo chiamavo sempre. E io gli avevo detto io, cazzo, c'è la canna, gli ho detto, no, non è questione di canna, mi ha detto, è questione di amicizie, mi ha detto. Mi ha detto che sei incuzzato, gli ho detto. Ormai funziona così, non lo sai. Se non conosce nessuno, se non sei incuzzato non entro, non lo sai così. Già ci sono le lezioni adesso, hai capito? Ti arrivano le lettere a casa, caro amico mio, capito? Ci siamo conosciuti tanto tempo fa e tu devi rispondere che cazzo mai chi ti sei mai culato. Già ci sono le lezioni, già si va a bullare il culo, bravissimo. come ti viene a dire a votare, vota qui, vota là, ma vai, si dimene la guru tutti quanti. Cazzo, se non vai a votare a zone, si va, se ne intendi. Io lo so, se quante lettere mi arrivavano a me, carissimo Antonello, io mi sono ricordato di te, certo, cazzo, per le votazioni, però quando vengo in ufficio non c'eri mai che... Questa è il segreto, io non devo votare nessuno, non ho già votato né l'anno passato né l'anno che viene le altre votazioni. Io sono minimo che non voto, sarà, cosa ti dico, 20 anni, 20 anni no, però quasi. Come me, sì, da, più o meno. Io non ho più votato dalla volta che babbo è ancora vivo, mi ci ha portato da uno all'altro, dice, ha dato la lettera, dice questo, dice vai con questa lettera qui, la dai a tizio e sta tranquillo che ti fai entrare a lavorare. Io ho dato la lettera, l'ha pigliato, ce l'ha imbustato a cazzo, ce l'ha buttato al cesso. E io quando l'ho visto ho detto fa una cosa, non mi cerca più, ha giurito me. E te ne vai a fanculo, ho detto. Anche non sai che così, che ti toccano solo quando lui devi dare il voto. Cazzo. È così. Peppa! Oi, Giomari! Buonasera, buonasera anche a Antonello. Ciao Giomari. Dai, dai, continuate, sono qua. Bene, tutto a posto, Giomari. Ah, sembra a posto, cazzo. E come? Sta tranquillo, quando non è a posto, io ti dico qualcosa. Ah, andare, vai, Antonio. Allora, tutto a posto, ok. C'è anche l'antenna per il wifi qua agganciata, io in pratica mi aggancio a quello di fronte e uso il computer gratis. Amei! Mi sta bava! Dammitati! Dammitati! Seia! Ciao, buonasera! Tutto a posto, è voi, sì? Punti, mi senti? Ehi, è lui, ah! Ma non mi senti? Mi senti bene? Ehi, gatta l'unghiria, e come ci sento? Fermo il distributore mettendo gasolio, là. Ehi, riprendi, vabbè. Ehi, Giomari, quella roba lì tutto a posto in casa? Tutto a posto, è un buon buono. Avviso, siamo ancora i sacchi. Me lo posso immaginare che allora un bombo, cazzo, tutta una cagosa. Però, dai, finito tutto, per cui qualche cosettina magari da attaccare ancora, però l'ultima cosa, capito? Il resto è tutto a posto, tranquillo. Va Antonio. Cappa, attacchiamo tutti attacchiamo. Sto usando l'alimentatore, quello cinese, sto usando. Guardate, non so che foto gli abbia pigliato e scegliere l'alternata. Bisogna che lo smonto. E cosa devi smonta? L'alimentatore, quello grande, quando era in salone funzionava bene. Quando ci ho messo qui in camera, mi danno un tiro alternata. Bisogna che lo apro e lo controllo, vedi. Mi sto cercando, a proposito di alimentatore, mi sto cercando uno marino, Antonio, non ce l'hai da 30 ampere? Uno marino, cioè, ce l'ho da 50 ampere io cinese. Vendilo, quanto lo stai vendendo? E se per questo ce l'accompagno, che cosa, lo tengo di riserva quello da 50 io, costa, mi sembra che ho pagato 20 euro. Lo porto lì in quel negozio che c'è a Coso, a Pedanieda, come si chiama, Muraia, lo porto lì e gli faccio prendere l'alimentatore. Prendere a Coso, lo stava cercando Marino, lo dirò a lui, se lo senti glielo dici. Vabbè, glielo dirò, là. Aspetta un attimo che devo rispondere al telefono. Giomari. Ehi. Bene, ma cosa, Giomari? Com'è? Bene, mi ascolti, sì. Cazzo. E forse, già lo credo, ci sento bene. Dovrebbe sentirti bene anche Antonello, vero Antonello? Al telefono, No, sto usando quello là, Giomari. Eia, va bene, cazzo, cosa vuoi di più? Va bene, va bene. E poi, meglio, dire prendere il tornello più lontano e non te l'ha detto che va bene. No, no, lui già me, sì, mi ascolta bene, mi ascolta bene. Non ci sono problemi. Tranquillo, allora. Ebbene, la birra l'ha bevuta veramente stamattina. Cazzo, tu siamo entrati, ha messo una cosa. E se siamo usciti da luna, ne siamo usciti quasi. Posso immaginare. E poi, quando si comincia a fare il danno, alla fine più marino, Ehi, ma già per la cliente, puro. Va bene, è chiaro, magari un giro uno, un giro l'altro, sa. Una chiacchiera tira così, una chiacchiera tira là e l'ora passa ma avete fatto bene questa cazzo. Va bene così, Emanuele, va bene. Cazzo, ma con la macchina oggi ha giubilato, allora devo ubbiliare casera. Ho saltato oggi la pastiglia. Quella è cosa grave, Deve pigliare a quell'ora, sei tranquillo, sennò la questione non va bene di più, Per cui... Devo rispettare l'ora, E allora abito stasera alle 9 e poi domani apprendo alle 9. Domani mattina. Eia. Va bene, va bene. Meglio così va. L'importante è star bene, che faccia bene con la pastiglia, almeno sei tranquillo. Va. Però sai cos'è? Che te lo passa momentaneamente da voi e torna le stesse cose, capito? Purtroppo è così. Perché devo fare le cose dell'operazione, all'ace. Adesso dobbiamo prendere un appuntamento con Tonino lì a Cagliari. E poi ce lo facciamo fare all'ace. Anche io se non si busca. Se c'è da fare bisogna farlo. Speriamo che facciano bene, dai. Che tutto vada bene. Ti aspetto 5 minuti, Emanuele, dai, che devo fare cose. Beh, ok, dai. Ciao Mari, domitoci! Papà, Gio Maria Zambullato, vabbè, andiamo. Cata, papà, andiamo bene, andiamo, cata. Vabbè, invece. Un pugno. Peppa. Peppa, dove scatta il pesce? Miau. Peppa! E Luca, è sparito, È sparito. Succede se la pionda, Ah, in girella a passeggio e adesso ne va a ballare, a Tavola, a prendere un po' di freschetto, mi faccio un po' di vento adesso. Lasciamolo fare. Che ha settato il poverino, che c'ha caldo. Fa bene. Ha ragione, ci fa vedere. No, c'è coso. Gio Maria e Luca poco fa c'era. Ah, poco fa. Ho capito. Buonasera. C'era anche 5 c'era. Ispettore, andiamo. Ispettore. Vai, cuoco male. Casarella. Tappare. Com'è? Beh, dormito sono, qua un po'. Oh, dormito sì. Si dorme bene, adesso c'è fresco. No, dai, diciamo che mi sono sbarbato, dai. Mi ho sistemato bene la barba. Me l'ho un po' accorciata. Sto un po' doccia. Ci cambiamo, ci profumiamo e usciamo. Fai bene. No, io sono a casa. Basta le uscite. A casa... A riposo, ero 3 mesi in uscita, basta così. Avanti, attenzione. Ciao già, ti ascolto forte e chiaro. Compagnia di Claudio, che c'era, boh? Non mi ricordo, Gio Maria mi pare, boh, non so chi c'era, avanti. Ah, Pomponio, riprendi. Ehi, a Cagianie, non manco l'ascolto io. Doppio room. Vedi di là punisce l'antenna, non arriva qua, no. Sta usando qualche cacciavite come antenna. Uno lo sento io, zero completamente. Manco a squarcio aperto arriva. E anch'io, a meno che Gianni fa una cosa, prendi la macchina, salite qua al quadrato. Ma tu mi senti, Lu? Luca? Luca? Deve essere che si è sceso dalla macchina. Se non sta parlando Gianni e sente solo a lui, cosa ne giochi? Già, stavo facendo vedere un video a Marina, mi senti già? Sì, già da Marina, anche tu arrivi benissimo, vabbè, loro non ti sento, non è Pompuglia né Claudio. Tu dove sei, a casa? Vabbè, ma parlando sta... Ehi, aspetta. Già, perché sei un vicino, dai. Sì, stava parlando, Cla. Lo so, non lo senti. Vabbè, vai in 27, dai. Tanto anche io tra un po', mi duccia, usciamo, dai. Me ne vado a fare una passeggiata al mare. Riprendi, Cla. Ehi, saluto Gianni, ma qua non arriva per niente. Nulla, zero completamente. Vai, Antonio. Io la centesimo, un millimetro di proprio di... Ma appena l'ho sentito. Ha fatto un passaggio sulla gentesa poco, ma manco un secondo e mezzo. Strano, arriva Gio Maria col portatile a casa mia, molto bene, lui non lo sento per niente. E lui l'altro di me, cazzo, l'altro deve arrivare bene da casa sua. Se si mette dalla parte del terrazzino verso polizia dovrebbe arrivare bene. Non lo so, Gio Maria arriva bene col portatile, anche dalla cucina, senza l'antenna, con l'antenna in gomma, lui non lo sento, deve essere zona lonfia. Ascolti quel gommino qua. Alla grande. Andare. Ma quello suo è il coso, il portatile, che non è dei migliori, capito? Voi ci avete quello cinese, lui no. Ah, allora è per quello. Basta andare a pigliarsene un buon Feng, V5 RP Plus. Anzi, ce ne sono vari modelli che sono molto meglio, 8 watt addirittura. Infatti ci sono quelli che hanno 8 watt, 5 watt, quello non so quanti watt c'ha, ma non l'ho mai sentito io. Qualche volta così, secondo dove si mette, se no non arriva qua a casa. Nonostante io abbia l'antenna alta, no, non ci arrivo. E infatti, bisogna che lo si vede qua quadrata, ma uguale. O se no dalla parte dove ci sente più forte a noi, non lo so. Avanti Ginko, ora se c'è ancora Gio Maria. Sì, guarda, deve entrare un altro che sta chiamando a Claudio. Ma se io non lo sento cosa rispondo? Se lui mi sente a me lo saluto, ma io non lo sento, non arriva qua. Non arriva neanche l'Antonello, che è molto più aperto di me verso di voi. Io ti sento adesso. Capito, Emanuele? Ehi, ho capito. Ha detto che lui ti sente, ma evidentemente tu non senti a lui. Ci mancherebbe altro che lui non mi sente a me. Cazzo, faccio l'antenna a 6 metri, a 50 metri d'altezza, sto usando 50 watt, è chiaro che lui mi sente, ma io non lo sento a lui. Sai che ci va bene, te lo ricordi Antonello Riossi, quando avevo dato quel Brondi, quella coppia di Brondi, cazzo? Da casa sua, sulla arrivava sino al circolo di Ricco arrivava. Ma le UHF sono così, no? C'è niente da fare. Se si è a vista ottica, io Antonello ce l'ho a vista ottica, è chiaro che lo sento. Ma Gianni per me non è a vista ottica. Cioè io per lui sì, perché lo vedo, ma lui non vede a me. Le UHF ti devi vedere uno con l'altro, se non ti vedi non ce la fai a trasmettere. Caro. Sì, a voglia che ti sento a te. Bacione a tutti, sto mangiando, ciao. Ciao Marco, buonasera. Ciao Marco, buonasera anche a te. Sentivo Natalino stasera io, di l'accento storico, figurati. Lo sentivo anche bene, anche con portatile addirittura, con l'antenna in gomma. L'ho sentito anch'io ieri, non l'ho salutato a Natalino, non è entrato. Arrivava segnale 1, bene di radio, con lo squelch chiuso, apriva bene lo squelch, con l'antenna in gomma, perché lo vedo, lui vede a me sicuramente. Però Gianni c'ha una posizione, non lo so perché non arriva qua, non ho mai compreso. Vabbè. Non lo saccio, cazzo, stavamo, quando abbiamo fatto il lavoro, bastava un antennino piccolino, un altro cavettino di discesa e aveva avuto l'impianto ad hoc. Avrebbe avuto tutto, per perché noi ci trasferiamo anche qua, non è che stiamo sempre 27, adesso che questa è libera siamo tutti qua anche, quindi si deve mettere qualcosa per farsi sentire, perché lo sentono solo quelli vicino a lui, qua non arriva, sopra non arriva. Io lo so infatti, al limite si comprerà un'antenna di Amont come quella che ho io per la macchina, con la magnetica. Si prende il cavo, se lo mette attaccata alla ringhiera del terrazzino, se non c'ha possibilità di salire da sopra. Io con quella lì, con la Diamond, figurati, è la prima antenna che ho piazzato. E da qua sopra, sotto proprio alla mantova, mi sentivo a Fabrizio Palottore, se mi è marito Gosa, cazzo, come stai arrivando fuori, tanto, ma cosa stai usando? E tu una Diamond di macchina. Dice noi a Palottore se non usciamo al sentirci, non è che ti sposti, mi ha detto. Ho detto vabbè, non c'è problema, anche perché in quel periodo, se ti ricordi, io modulavo con quello di Olmedo, modulavo, e quindi mi sentiva benissimo, mi va bene. Dopodiché da quella mi aveva regalato l'antenna Stefano, poi l'altra l'aveva venduta, la X300, che poi l'ho attaccata e mi ha bruciato il finale lungoso del lineare del BV 2002, io uno fuso di finale. Adesso aspetto un po' e il prossimo mese me lo prendo, così la lineare torna come prima, uscì, già esce 200 watt e tira fuori adesso provvisoriamente, comunque già esce lo stesso. Sì, quanto è il B300 che c'ho io, 180 watt col baracchino, ma non lo attacco quasi mai. Va bene, dai, io vi saluto un attimino, ci sentiamo dopo, magari 27 o qua, è tutto acceso, che devo uscire a fare una commissione, devo andare allo spin, ci sentiamo dopo. Riprendi con Gico, se senti a Gianni, non lo so, vi saluto tutti, a dopo. E ciao Claudio, dopo ci sentiamo. Avanti Ginko. Ciao qua, ci sentiamo là. Buona serata. Buon Antonio. Ehi, già va bene. Gio Maria, che ti viene affatto? Gio Maria, cosa stai combinando? Cosa sto combinando? Beh, c'è qualche cosa ancora a terminare e ogni tanto ho un coppettino di mano, là. Già rientro subito, faccio 5 minuti, rientro, vai. Riprende Emanuele. Io sempre andato a fare due su Gian Maria, polizia da una parte all'altra. Beh, si do per il buon bambino, è vero, mi bocca la radio. andare, dai. Ah, 1 o 5 minuti, dai, termino qua e dopo io rientro, là. Io, quanto è? Io sono qua. Ci ho portato l'LPD, ciò. Cazzo, cioè, mi ricordo male, c'era cioè, 0.5 watt, o 10 mili, infatti, una cosa del genere. Me l'avevo regalato. Che funziona. Se vuoi, devi comprare il microfono esterno, ok? Perché l'audio che c'ha non è che sia molto alto. In coso, in ricezione. E quale? Quel portatile lì? Un portatile grigio, regalato, ci vanno le batterie, quelle dei mini stilo ci vanno, quelle normali, ricaricabili. Però ce ne vanno. Chi vuole entrare? Avanti. C'è da uno sotto, vuole entrare. Avanti chi vuole entrare. Se sono femmine sono ben accettate, che qui siamo tutti single. Tu sei gullurato, sei cosa single? Vabbè, si vive per fare una piscina mia, mi fidrò un culo, si può un po'. Sentito solamente una volta la tua ragazza, va anch'io. E buh, poi non l'ho più sentita. Vabbè, da te, da non c'è da me. Non la conosco nemmeno, figurati tu. Ho sentito solo una volta, che l'avevi fatta modulare il 27. Dopodiché non l'avevo più sentita la verità, Svicca. Ti metto incinta, occhio. E così poi mi dai il coso, il bonus, gli 800 euro. Ormai Antonello è fritto Antonello, ormai sei collegato. ti abbia giù dalla bicicletta, va bene dai Antonè. Sì, 26 anni sono fidanzato, figurati. Anzi, fidanzato, convivente. La verità si dica, è come se fossi sposato. Adesso se vado per dire, a fare i documenti in chiesa, mi sposo, magari dopo due giorni prendo e mi lascio, ok? Ma è così infatti, è così. È così. Ormai è così, allora si stanno più a convivere che da sposati. Vabbè che la matta si goza, non è che cambia nulla da sposati a convivere, la matta si goza. Quando convivi sei tranquillo che sai, cambia tutto quanto, uno è essere fidanzato, vederti 2-3 ore al giorno, stare assieme. L'altro invece stare 24 ore su 24, quella cosa è diversa, cambia. Tranquillo, tranquillo. Io ci sono stato con la mia ex moglie 20 anni quasi. Figurati, poi talmente stufo di vederla, dice, ecco, io sto prendendo i piedi e sto uscendo, tu ne hai voglia? Dice, no, non ne ho voglia, rimango a casa, rimane a casa, guardate, beautiful, dietro vetrine, mistero, e anche lì che piangono, eccetera, eccetera. Cazzo, di che poveri, ohia. Te sto dicendo, tutte te lo vedete, si guardano, tutte. Ma sono così, le donne sono tutte così, comandano ormai loro, le donne ormai comandano loro, e se contraddici qualcosa, si serve che può. Sì, vabbè, non è che sia così, vabbè, io sono totalmente diverso. Però un bel dirigente fa così, il marito se ne va in giro al bar o al circolo perché a casa non ci sa stare, non può stare attaccato al televisore, no? E invece la fidanzata oppure la moglie a guardarsi tutte queste cose, cazzo. Fino alle 7:30 di sera è tutto pieno di questa roba qua. Ui uia. Prima c'era anche lì che piangono, quello era bello, me lo ricordo sempre. Poi adesso hanno fatto tutte queste telenovele strane. Sì, uia, cazzo, già la Bogubic c'è questa telenovela. Sì, c'era poca gente che si metteva a piangere. Ma se abbiamo baidato, due puro. No, un paio di volte lo guardate, lo sapevo, vogliamolo fare. Quando ero a casa di mamma, no? C'era la mamma, non se ne perdeva una. Ma tua madre è morta, Antonio? E io, è morta prima babbo e poi mamma. Sì, di tuo padre già me lo ricordo che era morto prima tuo padre, poi c'era tua madre, mi ricordo. Tuo padre me lo ricordo che scendeva con quella macchina rossa, mi ricordo, c'era una macchina rossa a Bordeaux, no? La macchina rossa, come te l'hai sognata la macchina rossa? Babbo ha avuto un 127 azzurro verde mare, poi aveva preso una Ritmo bianca, dopo la Ritmo bianca aveva comprato una Polo blu, e dopo la Polo blu ha comprato una Polo grigia, che adesso prima lo usava Giampiero, dopodiché adesso la sta usando Giovanna. Eppure mi ricordavo, c'era una macchina rossa a Bordeaux, mi ricordavo. Non mi sto sbagliando, con un'altra persona. No, rossa a Bordeaux non l'ho mai preso. Azzurro verde mare, sì, un 127, cazzo. Me lo ricordo sempre quando l'ha portato alla concessionaria, mi veniva da ridere perché il cofano gli è esattamente a marcio, che gli è rimasto, il fondo gli è rimasto in mano. La macchina buona, fuori era buona, ma il cofano, perché babbo ci metteva la verdura bagnata, capito? La campagna andava a consegnarla lì all'amico su cui c'aveva la frutta e verdura, hai capito? E quindi io scendevo tutti i giorni mattina sera in campagna a tagliare finocchie, tagliare sedani, carciofi, di tutto ci metteva, fave. E già me lo ricordo, già me lo ricordo. Altri tempi, Altri tempi era, Antone. Vabbè, altri tempi sì. Allora viene portato che sarà un pochettino diverso, capito? Ogni tanto, siccome si mettevano a correre, a partire dal fornitore, ogni tanto ne scendeva uno in campagna, ne scendeva in macchina e tutto lì. E poi lì il ponte non hanno sistemato ancora? No, non ho più sistemato niente con il ponte. L'avevano fatto in legno bello il comune, poi ha finito l'appalto, si hanno mangiato i soldi, non hanno più fatto niente, in pratica si è marcito così, non ho fatto le manutenzioni e niente. Adesso ne va là due e ce l'abbia in Napoli. Ma se non vi siamo non ha fatto là due una passerella? No, me ne frega niente di fare la passerella a me, non ci devo passare in quella campagna io, e basta che i lavori che ci ho fatto con... Per niente, passate giornate lì a frazzare benzina, capito? Sì, vabbè, lì era uno svago prima lì era uno svago, e poi è stata trascurata. Sì, uno svago per babbo, per me era una rottura di balle, perché dovevo scendere tutti i giorni io, hai capito? Entravo alle 7:30 di sera, alle 8. In pieno inverno poi a fare i finocchi congelati, cazzo. Non te lo dico nulla. Chissà come ti sarà, vai. Mi ricordo che c'era una casetta, era quella, c'era un cucinino, c'era. La casetta c'è. Un rudere è diventato adesso. Cazzo, roba di soli che vi saranno, va. Lì ci sono i soli, quelli grossi ci sono. Si chiamano cangatti. E che vi va a entrare, devi entrare con un cannello, devi entrare. Aspetta un attimo. Ah, si vede Marsupio? Il Marsupio, sì. Eppa! Ciao Mari, non mi stai. A te, sto molto amaro. Vale. Oh, ciao Mari. Ebbene, cosa stai combinando? Ah, nulla, sto sistemando qua un po'. Non ve ne sono. È parito Antonello. C'ha la succendi. Ogni tanto la sassaggia la mi fa alba a palavionda, capito? No, non sta bevendo, no. Non sta più bevendo col naso. No, con un naso. non bevo con un naso a Torello più, capito? Andiamo bene. A vino, andiamo bene. Tutto a posto, sì? Sì, quello è a posto, Giamari. Quello è a posto, lo facciamo andare. L'importante sia tutto a posto, poi il resto. Perché si tira a campare, ohia. Ohia, io già ho finito, però non la giocare, Manuel, non ne ho voglia. Sì, non la posso immaginare, Giamari. Ma sono anche le giornate, capito? Queste giornate pure noiose, è normale di ne basta bull'uragano. Infatti allora, anche quello, per carità. E Marino si è sentito, no? E io l'ho detto, stamattina eravamo assieme, mi ha chiamato, ci abbiamo bevuto qualche bottiglia di birra al circolo. E poi non lo so cosa doveva fare sistemare in casa. Lui c'ha sempre da fare lì, è sempre impegnato, però ogni tanto gli affuggi e dentro là magari più senz'altro entrerà, vedi un po', per carità. E almeno qua posso parlare io, se no là no. Là si oscureggia la televisione. Cazzo, ma più di quella di quell'antenna lì, Giamari, peggio fa. Anche con questa antenna allora. Ma me lo immaginavo, te l'ho detto che entravo anche comunque da lì, capito? Purtroppo è così. Mentre invece con quella piccola non entro. Per carità, era quella piccola già Già posso entrare lì, capito? Ma se no è un casotto. Vabbè. Però almeno per la ricezione mi serve, capito? Hai provato a vedere tra una e l'altra la ricezione se cambia? È molto, cambia al 100%, vai. Tutto si sente, tutto, mentre in quella piccola non sentivo niente. Cazzo, non posso immaginare, se vedavi un buco, chissà, un pezzo di roccia, intendi nulla, era proprio so che hai Santen. Ma fanno bene, cazzo, fanno bene, cazzo. Se non si impostasse quella centralina lì, è un casino, poi non è che sia molto alta, magari essendo altri 4 metri più alta sarebbe stato l'ideale, però no, non ne mettono, no, la sollevo, lascio così, non mi interessa, vuol dire chiacchiero con quella piccolina, e questa mi serve per ricezione, capito? E puoi mettere anche un tubo telescopico, Giovanni, quei tubi telescopici da 6 metri. Secondo me metterne lì, quei 6 metri lì di altezza non dovrebbe disturbare. Devo pagare, se c'ho tempo salgo e metto quel lavoro, faccio quel lavoro alla centralina come avevo detto, capito? E vediamo un po', capito? Si intenta tutto, vai. L'altra volta, ripeto, non entravo, così che siccome è stata cambiata la centralina nuova, perché quella che c'era prima si era bruciata, e adesso bisogna fare un lavoro, bisogna aprire e entrare dentro, e imbrogliare tutta la centralina dentro, capito? Allora va bene. Cazzo, bisogna fare l'impacca anche la centralina. È un macello. È un macello la centralina, capito? Perché su... Entra, per forza entra, capito? Per cui non è che mi interessa più di tanto, capito? Quando voglio parlare vado là, e anche se non mi sentono tutti, e che se ne frega? Mi basta così, capito? Preferisco essere pulito, dai. Sì, vero, sì, Giamari, però ti gira le palle, che cazzo c'era l'antenna, cazzo, entra nelle antenne. Cos'è ti volevo dire? Hai provato a farti dare qualche controllo lì dalla zona di Marino, come arrivi? Ma io l'ho provato tutte, dai. Ma io sapevo già, che arrivavo a queste condizioni, capito? Sicché lo sapevo già, capito? E purtroppo è così, e non è che si possa fare più di tanto, capito? Adesso faccio quell'altro tentativo, quando risalgo, se va, se no non mi sta bene così. Faccio quell'antenna piccola, per cui quella sono tranquillo, ecco, tutto lì. Magari ci porto quell'altro apparecchietto, per cui magari da lì posso chiacchierare, capito? Ma comunque già... Sarebbe... non lo so cosa... Il brutto è che le centraline sono attaccate alle antenne. Se erano state giù, era stata tutta un'altra cosa. E cosa mi cercava? Purtroppo è così. Dai, ci sentiamo dopo, Manuè. Ok. Andare. Sono entrato. Buon puro, ne date pari due. Che è venuta Simona, mi ha dovuto mettere un paio di numeri di telefono che mancavano, capito? Al telefono suo. E glielo ho messi. Andare. Cos'è, non esci oggi? No, la mattina esco. Vado da cosa, vado. Da ricco, bevo un paio di birre e poi me ne salgo. Poi di mattina devo accompagnare a Simona insieme a Giovanna a comprarsi un po' di vestiti. Andare. Hai pendidina, no? E allora, spendere un po' di soldi. Dipende di denaro, dipende, che già vedrà di denaro se t'hai udito. Sì, magari, mi hanno tolto 80 euro da quello che devo ritirare. Figurati. Io. Un casino, se arrivano a 600 ci rimando a cagare, ci rimando, questo è poco ma sicuro, mi faccio il race, mi ripiglio i contanti e non devo stare a girarmi le balle. Adesso lo devono levare, dopo voglio vedere come campate. E c'è race, è la stessa cosa, non cambia nulla, anzi forse è meglio, almeno quando devi andare in quella banca che c'è dell'Italia, quella che c'è per la Rieda, ritiri in contanti, vai col mandato e ti ritiri in contanti, sei tranquillo, e non sei capito, puoi fare anche lavoro in nero, non ti succede nulla, invece così se fai lavoro in nero ti beccano, ti trombano, capito? Almeno la gente lavora in nero, a parte degli affaratori, cazzo, con i zingari che ci sono. Il proprio giorno che vai a ritirare quella roba lì ci sarà una fila fino in fondo, a meno che non fa la domanda al comune, che sono 800 euro ti danno, quella regionale. La tibia al comune, la tibia nessuno, la gente è antica prima di te, poi lascia perdere al comune, c'è bisogno di capire. Che bonus c'è? 800 euro so, faremo quello e te lo paga il comune ogni mese. Il lavoro devono dare, Antonecca, se il lavoro, no, con questa merda di carte, cartine e balle varie, il lavoro devono dare. Sì, basta andare a produttore, se vi aprire la petrochimica, vedrai come il lavoro ritorna. Ce ne abbiamo tanto di petrolio di vicino a Porto Torres e a Cagliari, e cambieremo di rendita, non hai capito? A parte il gas che c'è, c'è bisogno di pigliare il gas dall'Algeria, ce l'abbiamo a Oristano, basta fare i buchi e ci abbiamo il gas in Sardegna, per i fatti nostri. Vabbè, non lo so. Non lo so, non so se migliorano le cose, a me mi pare che più stiamo andando e più stiamo andando a rififu. Che adesso ci sono, c'è questo coronavirus, capito, adesso con quella scusa lì, vedrai, come ai primi freddi, tra caldo 40 gradi, è la prima giornata che fa freddo, ti prendi la febbre, capito, 37 e mezzo, 38, e te devi stare per forza a casa in quarantena, perché se non vi sia dare a dirlo qualcuno si è fregato. Sì, si è fregato, non è che si è fregato, i controlli te li fanno lo stesso, non è che si è fregato, adesso ti controllano. Sì, quello che siamo arrivati da fuori, hanno preso la paracetomina, una cosa del genere, per abbassare la febbre, capito, perché erano positivi. Quando sono arrivati a fare i controlli, febbre non avevano più. Come prendere la tachipirina, tale uguale, ti abbassa la febbre, subito. E adesso prendi queste cazzo di pastiglie per abbassarti, ma non funziona così. Uno, se ti fanno questi controlli, dovrebbe pure trovartelo, anche se si prendono queste pastiglie qua, se c'è qualche virus te dovrebbero trovare lo stesso, anche se ti abbassa la febbre. Beh, quello sì. Dov'è? Hai detto ciucchi. Te capi, compugno, così siamo messi nelle mani di incompetenti, uno più guascio dell'altro, dei politici. Ma hai visto Berlusconi, cazzo, non c'ho niente, sto bene, non vi preoccupate, devo andare a ricoverare l'urgenza, lui sembra l'amico suo obbligatore, tanto già erano assieme in Costa Smeralda, capito, a anche aspettarsi un po' di ragazze. Uno bacio l'acqua, per carità, non c'hanno niente, chissà quanto gatto non è gatto impriacato di niente. Io lo so, un bel se ne ha 150, mi sembra che sono lì, poi tocca mettine tutti quelli di quella della Maddalena e poi l'altra discoteca di Azzacchera, quindi siamo tornati come prima. è uno schifo. Non devono più far entrare queste casse di merda. Non ne devono più far entrare. Troppi non ne fate entrare. Troppi. E da voi si bilani da bacche mannaburo. E infatti, spiano pure la parte grande. Poi giornali ci si mettono di mezzo, già siamo messi male in Sardegna, capito? Non vengono qui, cagano, pisciano e poi ci parlano male. No, fatene due potenti. Il bello è quello, fare più potenti. Hai capito? Fasene due potenti. Arrivi e fasene pure due potenti. Una barriera da lì. Una barriera da lì giusta. Avevo tutta caliente, ma vedi che non aveva nata dalla Grecia. Io direi che il prossimo anno non è intanto, dico io. Il prossimo anno gli verrà un pochettino male, perché se uno vuole venire qui in Sardegna ci vogliono i documenti e gli esami del sangue, tutto gli faranno fare se vuole entrare qua. Politico o non politico, non entrerà più nessuno. Le discoteche rimarranno chiuse, te lo dico io. Le discoteche, ma non solo le discoteche, faranno chiudere anche il bar, torna, come era prima. Se chiudono quelle, dopo piano piano faranno chiudere anche i bar e i locali, te lo dico io. Spero di no. A me le bar, qualche cosa guadagnano, anche se sono tutti fuori, un metro uno all'altro, ma all'aria, voglio vedere adesso, appena cominciano le prime piogge, facciamo qua sotto me. Ma io guarda, sinceramente avrei chiuso tutto, avrei salvato tutto, sinceramente. Allora è stato solo i negozi alimentari, per le cose delle farmacie, e ti fanno entrare come facevano prima, 3-4 alla volta, lui va alla villa, fa entrare. Sì, si fanno come da prima guai. No, stai tranquillo che la gente, anche se a bar non ci andava, sai cosa faceva, se vedevi gente cazzo con bottiglie di whisky, di tutto si beveva, anche l'acetone. Sì, già li ho visti quando c'era questo cazzo di epidemia, cazzo a cavalli pieni di pomodori, di cazzo, ma così era mandando di cazzo in guerra. Sì, cazzo d'acqua, ascolta d'acqua, ascolta di coso, per carità, guarda, era uno schifo era prima. Che poi non c'è neanche bisogno, perché i camion, quelli che viaggiavano con la merce, venivano ogni giorno, infatti gliel'avevano detto a questi qui, non c'è bisogno di farsi le scorte di 4, di 5 carrilli, perché le scorte ci sono sempre, non mancheranno mai, perché viaggiano sempre, anche se c'era questo cavolo di Covid. E già li vedevo qua dello spin, dove fa entrare uno a uno ogni villa, ragazzi, fin da fuori crocro. E il casino è quello, che devi fare la fila per prendere, se ti devi prendere qualcosa ti devi fare una gola di mezz'ora, un'ora. Io un giorno sono andato la mattina allo spin, casa alle 9:30 sono andato, c'era la fila di un chilometro, non ti dico balle, alle Rusmi dove c'è di fronte a quel negozio di da Mauris, c'era la fila da un chilometro, fate il conto. Sì, adesso quel negozio lo stanno chiudendo, devono aprire un altro Rusmi diverso, e quindi sta vendendo tutta la rimanenza di quello che gli è rimasto, e poi sta dando in affitto il locale mura, capito? No, l'hanno già chiuso, è già chiuso e l'hanno aperto di fronte, un po' più avanti di Mauris. Ah, quindi figurati. C'è anche il locale del posto, il mio coso, mura. C'è ne ha locali, a voglia. Beh, Mi dai già locali, cazzo tutti i sarrati, capannoni, per carità. Ok, tutto sto dicendo. C'è il locale dove c'erano le poste prima lì. È tutta roba di mura, compresa anche dove c'è Maurice, è tutta roba di mura quei capannoni. Quindi a lui è arrivato a una certa età, fa come molto, l'ha capito. Se ne andando in pensione, dà il locale in affitto e si incassa gli affitti. Allora sai un affitto di quel capannone lì quanto prendono? Minimo 1.500-2.000 euro al mese. Esatto, sì, bravo. Se non di più pure. Quindi, non riconviene a cosa? Con i tempi che sono, mi dice, che se ne frega. Me ne vado in pensione e mi godo la vita. I dipendenti li fa riassumere, capito? Dallo spincolo con quello che apre, quindi lui bello tranquillo si incassa di là. Tanto già ne ha dei negozi mura. C'è la CRAI in via 4 novembre anche, che è sua. Ma la CRAI è quella che c'è anche, la CRAI di coso, quella che c'è qui a Latterò, c'è la sua lo stesso. La verità non te la so dire. Non lo so, comunque quella di via 4 novembre è roba sua, la CRAI. Poi c'è via Verona e lo Spin, poi quello di via Leporo Torres non è lo Spin di mura, è proprio è lo Spin nazionale là. Ho capito. È rimasto le cocce, sono rimaste a lui, che le cocce sono l'ospite delle cocce è roba sua. Sì, Gianna Capannone, Gianna il Capannone, va pure di là. E gli ha parecchi Capannone, ha voglia, ha vista mutua. Ogni tanto prende affitta locale, il figlio c'è il Balli e il figlio sta bene. E chi? Quello che è sposato con Lucia, quello è il più grande. L'altro mi sembra che è morto, quello che era sempre fatto. Ma di che stai dicendo? Di Mutola. Oh. Ehi. Lui c'è il promotore, se dove c'è. C'era come. Ma il negozio che c'è adesso. A fianco alla Fiat. Tu no, non ci ho fatto caso. Non ci ho fatto caso, qual è? Che ne ha locali? Abita qui vicino a casa, abitami. C'è la villetta a Carbonazzi, c'è la villetta arancione, vive anche il figlio, no? Mi sembra che 1.000 metri quadri quella casa, ci sono tre villette una a fianco all'altra. Certo, nulla. Gli aveva soldi, ha fatto come il multireddito gli aveva lo stesso soldi, ci ha sistemato i figli, hai capito? E quindi si ritira gli affitti. L'unico multireddito povero è quello che c'è in via Montegrappa. Sì, ma multireddito cazzo è più di 30 anni, se non vi so 40 anni, ma quasi anche di più, figurati. Già ne ha locale multireddito, c'è tutto quel locale vicino al cimitero, tutta roba sua. Certo, figurati. Ha dato paranuda. Perché sono stati fatti negli anni 80, hai capito? Quindi è stato anche fortunato. Allora siete rimasti, Antonio, solo quello lì e il 3009. No, c'ho l'857, l'anno 87, 271 canali, poi c'ho il Connex 4000, vabbè, il 3009 di Giovanna, poi c'ho il lineare, quello piccolo, lo Speedy, poi c'ho il BB 2002 a transisto, quello grande, e poi c'ho il baracchino che ho comprato lì, ZX 40 Pro della Polmar, omologato, capito? A voglia la roba già ne ho, basta avanza, a parte i portatili della Bofeng e due portatili marini, sono vecchi, i due Iaeso sono l'FT411E. Quelli marini no, ma modulano sempre. Sì, intanto già, vabbè, io ascolto la TP più che altro, perché la frequenza è in cosa, 1577775. Ascolto il tram quando parlano e basta. Frequenza qual è? 1577775. Quindi qua non si prende, non la prendiamo. Ah, in UHF non lo prendi, ma in V sì. Se c'è la V sì, ma se metti 1577775 senti la TP che parla. Ah, aggiungo un please. Vabbè, poi ci sono le altre frequenze che adesso non me le ricordo più. C'è il 118 che è in VHF, poi c'è l'elicottero drago, quello dei pompieri, che è sempre in VHF, che la frequenza non me la ricordo, e poi la forestale, eccetera, eccetera, i balancelli e tutta quella roba lì, sono tutti in V. E balancelli, lo 0, 169 balancelli. Aspetta che vi faccio la cena a Simona, che gliela do, già rientra fra poco. Vai, vai. Torino, a Torino.